Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che parla di lavoro da un punto di vista femminile, di come conciliare i diversi tempi, la famiglia, il tempo per sé, il tempo che si dedica alle cose di lavoro, appunto, tutto ciò sfuggendo, se possibile, al mito più distruttivo degli ultimi anni, quello del multitasking, quello secondo cui fare tante cose è una prerogativa femminile, e con ciò schiavizzandoci tutte noi che ci siamo convinte in questi anni che potevamo fare tutto, farlo bene, se non lo facevamo benissimo, tonnellate di sensi di colpa. Non è così, non si può fare tutto, si deve scegliere e poi si fa quel che si può, come diciamo in un programma che non per niente si chiama Nessuna è perfetta. Eccoci con una puntata in cui per una volta siamo ci alleggeriamo, non parliamo di lavoro, parliamo di emozioni. Perché? Perché è la settimana in cui, lo sapete, a Milano c'è un tourbillon di modelle, di sfilate, di sogni che vengono venduti attraverso le collezioni dell'autunno-inverno che verrà. E però per questa volta non parliamo di sogni legati ai vestiti, ma parliamo di sogni, emozioni, ricordi evocati da un altro aspetto importante della, diciamo, l'aspetto olfattivo della nostra vita, il profumo. Lo sapete, domani, lunedì 27 febbraio, termina la settimana della moda che ha visto protagonista la città di Milano con 6 giorni di sfilate e un calendario così fitto che ci ha fatto venire voglia di approfondire l'altro lato, perché la moda è visiva ma sta diventando anche olfattiva. Il profumo prende sempre più corpo e piede nella dimensione estetica. Pensate che a Parigi, proprio capitale mondiale della moda, dove ora si prolungano le settimane della moda, a Parigi è stato inaugurato a dicembre il Grand Musée du Parfum al 73 di Rue Faubourg Saint-Honoré. È il primo museo del profumo che mette insieme tutti i produttori francesi ed è una straordinaria visita quella che si può fare, perché si prova anche, diciamo, olfattivamente cosa produce un profumo piuttosto che un altro come sensazioni al nostro cervello. C'è un bar a parfum, c'è un vero e proprio percorso storico. Insomma, se i parigini hanno avuto questa idea, che è una bella idea di un museo così elegante a due passi dall'Eliseo, insomma, bisogna un po' capire che cosa sta succedendo sul mondo, nel grande mondo dell'olfatto. E io sono proprio curiosa di sapere cosa pensa un esteta, il nostro agente provocatore di questa settimana. Benvenuto Vittorio Sgarbi. Non sono molto provocatore perché non conosco i termini e le finalità del museo parigino, però ho una convinzione così radicata del sentimento e del senso anche storico degli odori, che quando ormai 22 anni fa fui presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, era una commissione che più che mi riguardava investiva soprattutto questioni di storia dell'arte, sì, di tutela, e io avevo proposto a delle esterrefatte signore deputate nella stessa commissione, erano molte donne, di fare un vincolo degli odori, perché quando tu vai a vedere una chiesa, un palazzo, una biblioteca, senti un odore di una storia che i restauri spesso eliminano disinfettando tutto come se fosse il progetto finale destinato a un'infermeria, quindi un'assenza di odori. E io ritenevo che l'odore avesse un peso di storia, cosa che peraltro non solo questo museo, ma in un senso fa pensare. Naturalmente risero quasi, come se con tanti problemi che c'erano allora ci sono anche oggi, ma allora poi c'era una tensione politica più forte con la presenza di Berlusconi al governo, queste fossero delle cose così appunto estetizzanti. Per cui E invece dopo tanti anni questa cosa accade, certo, non so questo... come accade, dico, però volevo ricordarti che devo essere tutto meno che provocatore, perché in questo caso sono d'accordo. Sei d'accordo. Che è un valore estetico, e ovviamente perché riguarda i sensi, ma è anche un valore culturale, perché l'odore in un luogo è una parte della sua vita. Ma poi il percorso storico, io ho visitato questo museo del profumo, a parte che ci vanno le famiglie con i bambini ed è interessante vedere come un certo profumo evoca e alcune reazioni cerebrali, ma del resto ci aveva pensato Proust col profumo delle Madeleine. Infatti. In quel caso forse era anche il sapore, quindi i due sensi. È quello che apparentemente, se tu fai un restauro, pensi alle strutture, pensi alla sicurezza, pensi agli arredi, non ti viene in mente. Infatti i luoghi, non so se potrebbero conservarlo, ma quando un luogo non ha ancora avuto un restauro e tu entri appunto in un convento, in una biblioteca, in una farmacia storica, quell'odore è uno degli elementi della tua reazione estetica, essendo appunto un dato estetico anche lui, e perderlo e perdere una parte della sua identità. Ecco, questo era il senso. Naturalmente poi la cosa è stata quasi una battuta, quindi mi ricordo le facce esterrefatte dei componenti della commissione. E poi non andiamo avanti, però mi fa molto piacere, quando mi avete chiesto di partecipare, che questa cosa poi per un verso o per l'altro sia avvenuta. Quali sono i profumi che hanno segnato la vita di Vittorio Sgarbi? Forse il primo è il profumo che portava tua madre, immagino. Ma questo, sai, non me lo ricordo. Di mia madre ricordo altre cose, non credo i profumi. Gli odori, quelli che ho in mente più lontani nel tempo, sono gli odori di cose buone, cioè di cibi buoni. Poi a Ferrara difficile quindi, che non fossero buoni. Quindi più legati alla parte gastronomica. Poi ricordo gli odori invece malinconici del collegio. Io ho fatto un collegio, sono stato dopo 50 anni a visitarlo e a parlare agli studenti oggi di una categoria diversa. È diventato un istituto professionale per formare dei giovani. Si chiamava Collegio Manfredini Salesiano di Este, e mi ricordo gli odori tristi invece di una cucina, come dire, da fanteria, e quindi qualcosa che non molto non più viene... traumatico che gli odori buoni di casa. Sì. Esattamente, quindi quello il primo passaggio. E poi ricordo viceversa una reazione nella fase in cui noi diventiamo, poi io ho fatto per molto tempo il seduttore quasi professionale, il divertimento è noto, di una donna, è noto. E quindi alcuni momenti della mia vita amorosa sono legati a profumi, di alcuni non ricordo il nome, mi ricordo che all'epoca c'era Charlie, non so cosa fosse, ma quello che più mi colpì era si chiamava T-Rose, e lo portava, l'ho portato anche donne che io ho amato, ma lo portava a ripare Gioia Falk. T-Rose era un profumo, appunto, come puoi dire il nome, di rosa, molto tenue ed è pieno però di fascino. E poi ce n'erano altri di cui non ricordo più il nome, che invece hanno preso l'ottica immediata, cioè la donna che avesse avuto quel profumo determinava in me un desiderio proprio al di là quasi del suo aspetto fisico, cioè il profumo precedeva l'attenzione dello sguardo. Io sono un fascista, quindi mi piacciono i volti, ma prima del volto il profumo aveva una sua capacità di cattura. Ma è capitato con diversi nomi, invece erano quelli che non mi piacevano, c'erano una specie di Mizuki, una cosa di questo genere, dei profumi vagamente orientali. Quelli che sanno di patchouli, di quelle cose lì, no. Poi sono arrivati i profumi invece più legati ai sentimenti, che sono quelli come di panna o di profumi molto delicati, molto... comunque insomma, certo, in questo caso non posso negare che il profumo, oltre alla la mia volontà di preservarlo negli edifici storici è stato molto importante anche della vita, diciamo, erotica. Ecco, ed è in grado secondo te di spegnere una pulsione erotica, un profumo sbagliato? Infatti qualche giorno fa ho visto una mia antica fiamma, una bella ragazza che è diventata una bella donna, che mi ha come guardato pensando di fare una, come dire, un richiamo, una rimpatriata, mettiamola così. Rimpatriata, esattamente. Io l'ho guardato, me, e poi lo sai, guarda, con questo profumo non potrà capitare nulla. E gliel'ho detto così brutalmente che lei si è sentita quasi in colpa e ha detto: la prossima volta lo cambierò. Però, un profumo come di persona matura, questi profumi un po' di cose stagionate nell'armadio, era proprio totalmente inadatto, secondo me, a riaccendere desideri. Esistono profumi da armadio che funzionano poi anche sulle donne, quello è interessante, così non lo prendiamo. Sono profumi che piacciono a loro, perché lei lo ha difeso, perché sono maschilista, ma non è che devo imporre nulla. Io le ho detto che a me non funziona, ma lei invece ne era convinta. Poi, per farmi piacere, visto che il suo obiettivo era che io tornassi da lei, allora ha deciso che avrebbe cambiato. Ma lei si sentiva bene. E sono due o tre profumi di quel tipo, che non saprei dire poi perché mi facciano questo effetto, ma è come se portassero con sé il peso di un tempo greve, di una cosa, e si sono. Quindi, siccome le donne cambiano profumo anche quando cambiano uomo, è possibile che questa rimpatriata avvenga. Faccelo sapere, avvertici. Grazie, buona domenica, Vittorio. Grazie. Ciao. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Questa è la nostra seconda parte. Sapete che è il momento dedicato alla nostra Sunday Girl. Laura Morante, attrice, regista e ora protagonista a teatro di Locandiera Bed and Breakfast di Edoardo Erba, liberamente ispirato alla locandiera di Carlo Goldoni per la regia di Roberto Andò. E sarà in scena all'Ambra Iovinelli di Roma dal 23 febbraio al 5 marzo e la cosa che mi incuriosisce di questa locandiera goldoniana molto, diciamo, attualizzata è il contesto nel quale si ritrova coinvolta, ma ce lo può raccontare direttamente lei. Buona domenica, Laura Morante. Buona domenica. Io non so se sono in grado di raccontarla, forse dovrebbe essere Erba a raccontare la sua versione della locandiera. Diciamo che siamo arrivati a questo testo, è arrivato Erba a questo testo con una serie, dopo una serie di tentativi, perché c'era stata una prima versione molto più aderente al testo goldoniano, che però così non aveva del tutto convinto nemmeno Roberto Andò, e quindi ci sono state vari incontri. A me sembra molto interessante questa rivisitazione, no? Perché lei mira è in un'antica villa che sta per essere trasformata in albergo, come succede sempre più spesso agli appartamenti e alle ville degli italiani, e si ritrova coinvolta in una strana cena organizzata dal marito con ambigui uomini d'affari. Sì. Poi piano piano vanno via tutti. Quello che stavo dicendo è che per restituire questa senso, diciamo, in qualche modo di pericolo, no? Che in qualche modo sovrasta la Mirandolina di Goldoni, perché è una donna sola a gestire nel Settecento una locanda, è una donna attraente, quindi insidiata da vari uomini e deve sapersi destreggere d'altronde con molta avidità in mezzo a tutti questi corteggiatori, eccetera. Però per restituire questa cosa bisognava cambiare, perché oggigiorno ovviamente non è più così sorprendente, certo, né così rischioso per una donna gestire da sola una una locanda, insomma in questo caso un bed and breakfast, e quindi a un certo punto nel corso di queste discussioni che sono state un po' il preludio a questo lavoro di Erba, è venuto fuori questa idea di farne un noir, di fare una versione noir thriller, ma diciamo thriller sempre giocoso, non... Come quindi, sono questi, quindi... questi italiani che la circondano in questa cena che si sviluppa per l'intera pièce? Non per l'intera pièce, c'è un primo atto che si svolge durante la scena e un secondo atto che si svolge nei corridoi delle stanze, dove si trovano le stanze da letto, con tutte queste porte che si aprono e si chiudono. Sì. Ma come sono questi italiani? Ci sono, diciamo, in qualche modo c'è una parentela fra i personaggi della pièce di Goldoni e i personaggi di Erba. Qui però sono i due inquilini di questo bed and breakfast, sono due uomini d'affari, come lei ha detto, piuttosto loschi, si capisce che gli affari non sono tanto limpidi, come dice la stessa Mira, e un siciliano e un altro, e un milanese, diciamo, fra l'altro Roberto ha voluto che tutti noi avessimo in qualche modo un'inflessione, per quanto mi riguarda, siccome la locandina di Goldoni si svolge in Toscana, io sono toscana, è venuto benissimo, abbastanza certo. Semplice fare questa, no? E quindi si è deciso nel corso delle prove, peraltro, perché il testo di Erba era scritto in italiano, poi nel corso delle prove con Roberto si è deciso invece di usare le inflessioni dialettali, quindi è un paese con una morale molto elastica, quella che affiora. Ma da... io non lo so, guardi, sì. io sono un pochino allergica ai messaggi, devo dire la verità, quindi ogni volta che mi si chiede qual è il senso, il messaggio, cosa, io non so mai che cosa dire, perché non mi piace l'idea che una cosa debba contenere un messaggio, sono un po' rifrattaria, devo dire la verità, non riesco mai a tradurre in messaggi, ecco, le cose che... Le chiedo, ma lei nella vita reale, se le capitassero due personaggi come quelli della locandiera con i quali ha a che fare a teatro, ci andrebbe a cena volentieri? Ma in questo caso lei è obbligata professionalmente, perché in teoria questo è un bed and breakfast, sì. Non è ancora aperto, ma soprattutto questi due personaggi sono stati invitati dal marito, che è il grande assente della pièce, e a differenza della Mirandolina di Goldoni, che è una donna indipendente, sicura di sé, una manipolatrice in qualche modo, anche questa è all'inizio una donna totalmente sopraffatta e travolta dagli eventi, che è all'oscuro di tutto, che il marito tiene all'oscuro di tutto, e che poco a poco finisce per avvicinarsi alla Mirandolina di Goldoni, ma nel primo atto è una donna in qualche modo così perduta in mezzo a questi personaggi di cui lei non sa nulla, non capisce nulla. E poi ci sono le due ragazze che nella pièce di Goldoni sono due attrici un po' leggere, ma insomma due attrici, due donne, si capisce, anche abbastanza disponibili, e qui sono praticamente due escort, come si dice, sì. Ora, no? Quasi, sì. Ecco. Quindi ci sono, diciamo, non so come dire, io credo che finiscano per imparentarsi tutti con i personaggi goldoniani, partendo però, cioè, quando la pièce comincia siamo abbastanza distanti da Goldoni, ma progressivamente in qualche modo ci si avvicina al mondo goldoniano. Beh, il carattere di un popolo un pochino, no? Qualche traccia lo conserva nei secoli, o almeno così si dice. Il carattere di un popolo... si conserva nei secoli, o almeno qualche traccia del carattere che Goldoni aveva così efficacemente colto, si ritrova anche negli italiani di oggi. Senta, però volevo chiederle in conclusione qualcosa che ha a che fare con la sua attività, che è molto multitasking, perché lei, lo diciamo, è attrice di teatro, attrice di cinema, regista, è molte cose molto insieme. Qui si ferma. Però sono tante. Noi qui, diciamo, ecco, qui a Nessuna è Perfetta conduciamo, lei lo sa, sa, perché anche l'anno scorso è stata nostra ospite, una nostra piccola diciamo competizione contro il multitasking, ma noi per prime, io stessa sono vittima di questo condizionamento per cui uno cerca di fare sempre tante cose e poi arriva stremato. Lei si è data una regola? Non ho capito. Stremata alla fine, no? Stremata. Sì, ah. Ecco. Lei, no, si è data una regola? Uno tragga energia da tante cose. Non credo che uno, cioè non lo so, particolarmente faticoso, anzi lo trovo corroborante. Quindi lei lo consiglia? Io sì, a me piace differenziare, così come non ho mai, cioè ho sempre cercato di differenziare i ruoli come attrice, ho cercato di non chiudermi in un solo tipo di ruolo, ci hanno provato in tutte le maniere a farmi fare sempre lo stesso ruolo, però io ho cercato di lei sfugge. Mi sono ribellata come sì. Ho potuto, ecco, diciamo, a questa no, non mi piace pescare di qua e di là, mi piace cambiare, no? Così è divertente e anzi credo che dia energia piuttosto che toglierla. Bene, questo allora è una spinta in più per riflettere, ci faremo sopra una puntata se è d'accordo, se vorrà tornare ospite di Nessuna, certo, è perfetta. Perché no? Intanto veniamo noi ospiti all'Ambra Iovinelli per vedere come è questa Mira della versione di Edoardo Erba e per la regia di Roberto Andò, protagonista Laura Morante, che ringraziamo. Buona domenica. Grazie, arrivederci. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, benvenuti, buona domenica. Nicoletta Polla Mattiò, direttrice dell'edizione italiana di How to Spend It, il magazine del Financial Times dedicato al lusso, ed è un magazine del gruppo Sole 24 Ore, non solo in questa veste, ma soprattutto come autrice di un libro molto bello, molto denso, ma è molto bello anche da vedere, Essenze di stile, storia dell'evoluzione femminile attraverso il profumo. Buona domenica, Nicoletta. Buona domenica a voi. E a proposito di profumo, c'è con noi Gianluca Toniolo, che è il Country General Manager di LVMH, perché la divisione profumi e cosmetici Italia ed è ovviamente un grande tra gli investitori, la presenza, il gruppo piuttosto, diciamo, importante nel Museo del Profumo di cui vi parlavo a inizio di trasmissione, il Museo del Profumo che è stato aperto a Parigi a dicembre in Faubourg Saint-Honoré, a 2 passi dall'Eliseo. Allora, io vorrei cominciare subito da Nicoletta. Nel libro Essenze di stile il profumo diventa l'occasione per passare attraverso un secolo di cambiamenti dell'identità femminile, da Coco Chanel a Madonna, e il profumo ha un forte significato nel passaggio dall'una all'altra di queste icone femminili. Sì, l'idea era proprio di fare attraverso questo libro non una storia del profumo, ma appunto una storia del costume attraverso il profumo. Grazie intanto a uno dei poteri più forti che il profumo ha, che è quello di evocare, no? È fortemente mnemonico, è un suscitatore di memoria, e quindi l'idea era appunto di ripercorrere la storia non attraverso la visione di come cambia appunto la moda, il gusto, ma provare a farlo evocandolo attraverso l'evoluzione appunto del costume olfattivo, anche perché il Novecento è stato il secolo profumato, no? È battezzato il secolo profumato. E quindi questo è un po' una cavalcata, diciamo, attraverso dagli anni 20 fino agli anni 80, vedendo come è cambiata la moda, diciamo così, la moda, il gusto, la voglia di rappresentarsi anche attraverso il profumo. E mi piaceva l'idea di appunto raccontare la storia, diciamo così, con la S maiuscola, ma anche le storie, perché è un libro che vorrebbe suscitare le memorie di chi legge, cioè è un libro che vorrebbe essere esperienziale, anche se non è un libro da annusare, ma è un libro da guardare e da leggere, perché io credo che con un po' di sforzo ciascuno di noi abbia nella memoria il suo profumo, il primo profumo che ha messo alla prima festa o al primo incontro, o e comunque certo. Il potere. Ecco, lo chiedo a te, Nicoletta. Io mi ricordo il mio primo profumo, era Capucci Pour Homme. E già allora avevo deciso che mi piaceva, come dire, una certa maschilità di essenza. Il suo primo profumo invece, Toniolo, lo chiediamo, vediamo se se lo ricorda. Intanto buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori. Il mio primo profumo me lo ricordo assolutamente, avendo vissuto gli anni Ottanta come, diciamo così, i miei anni. Era Arrogance, per l'uomo era Dracar Noir, un profumo che ha fatto la storia, profumo di Guy Laroche, un profumo fantastico che direi è durato un decennio, e questo la dice lunga invece oggi come il ciclo di vita dei prodotti si sia assolutamente accorciato, no? Chissà infatti perché è un fatto di business, ma ci torneremo. Nicoletta, il primo profumo? Guarda, il primo profumo era quello che rubavo a mia nonna, e quindi era lo Chanel numero 5, inevitabilmente più iconico di così, ma proprio ero piccola e andavo a rubarlo, e poi negli anni è un profumo che si è rinnovato molto, ma in qualche modo resta un'icona e tuttora il profumo più venduto al mondo. Ma la cosa che mi interessava dirti è che poi magari non ci si ricorda il nome del profumo, ma nel momento in cui lo si sente immediatamente scattano i ricordi di quel preciso momento in cui lo si è indossato, per cui magari appunto non ci ricordiamo il nome, ma appena lo sentiamo è un attimo, è come se in una catena si collegassero tutti i ricordi di quel momento personale, ma anche un po' i ricordi dell'epoca. In questo senso è un potentissimo suscitatore è come la musica, è come le canzoni, no? Gianluca Toniolo, nella vita di una persona, uomo, donna, ma parlo per le donne perché essendo donna mi riconosco un po' di più nelle esperienze di queste ultime, si cambia profumo a seconda degli stati d'animo, a seconda delle stagioni. Io appunto vi raccontavo che il mio primo profumo è stato Capucci Pour Homme perché avevo bisogno di segnare molto la mia, ero un 17-18enne, ma insomma volevo far capire che ero una ragazza molto decisa, poi chissà se lo ero davvero. Nel mondo appunto della cosmetica, della profumeria, dei grandi gruppi multinazionali, come si capisce quando è il momento di lanciare un profumo in un certo modo o in un altro? Beh, intanto è chiaro che ci sono dei fenomeni, delle tendenze di mercato che segnano il passo, quindi dagli anni 60, che era l'epoca dei profumi molto puissanti, agli anni 70, profumi più passionali, si è poi passati agli anni 80, agli anni 90, dove il profumo si è assolutamente alleggerito ed è stato il momento un po' delle acque. Perché? Perché c'era un fenomeno di avvicinamento a un mondo molto più della natura, un mondo legato alle palestre, al benessere, all'aria aperta, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei momenti storici proprio che segnano il successo di una fragranza o il suo insuccesso, perché quella fragranza è in grado di interpretare al meglio quelli che sono quello che è il mood del momento storico. Le grandi multinazionali analizzano i dati, studiano i fenomeni, le tendenze di mercato che vengono tra l'altro dai diversi continenti, come le dicevo, una responsabilità anche internazionale, quindi oggi le tendenze si spostano da un continente all'altro con grande frequenza e con grandissima velocità. Ecco, ma una ragazza di Singapore o di Shanghai ricerca la stessa sensazione olfattiva di una ragazza di Città del Messico? O no, assolutamente. C'è una differenza? C'è una differenza molto, molto importante. Intanto c'è una differenza di tendenze, c'è una differenza di volumi. Oggi, per darle un dato, il mercato italiano, la parte fragranze nel mercato cosmetico pesa circa un 45%, quindi il mondo del profumo in Italia, nel mercato cosmetico italiano, è intorno al 45%. In Europa questi sono più o meno i dati medi, con qualche punta, vedi paesi tipo Francia, dove il mercato del profumo raggiunge circa il 60% del mercato cosmetico. Per tornare alla sua domanda, quando andiamo nel mercato asiatico, invece, che è un mercato molto più basato sulla cura della pelle, quindi sullo skin care, sulle creme, il mercato del profumo oscilla tra un 10 e un 15%, quindi intanto in Asia diciamo che ci si profuma un pochino meno, ma quando ci si profuma si ricercano delle fragranze, diciamo, meno pesanti, si ricercano delle fragranze molto più legate, diciamo molto più leggere, tipo delle eau de toilette piuttosto a un eau de parfum, e piuttosto che un profumo orientale che notoriamente ha delle note olfattive che sono piuttosto cariche, si ricercano delle note che sono più tendenti invece all'acqua, note fresche. Queste sono le grandi differenze. Nicoletta, ma nel lavorare al libro Essenze di Stile, hai scoperto cose che non ti saresti aspettato di come parallelamente si muova il mondo olfattivo, quindi l'evocazione del profumo? Ci raccontava Vittorio Sgarbi prima che talvolta gli è capitato di sedurre una donna solo perché aveva un buon profumo e viceversa, cioè di non sedurla perché quel profumo non gli piaceva. Cioè, hai fatto delle scoperte su questa vita parallela del profumo e anche della moda, di come una si presenta, di come sceglie un abito. C'è una coerenza o c'è un'incoerenza? Guarda, dipende, perché ovviamente la scelta, come dicevi tu stessa, la scelta è estremamente personale, e nello stesso tempo però risponde un po' a quella che è l'aria del tempo, come diceva Toniolo. Quindi in qualche modo diciamo una doppia verità, no? Che è una scelta estremamente soggettiva, anche perché davvero il profumo ci rappresenta, e ci rappresenta in maniera molto irrazionale. Ecco, forse la cosa che mi viene da evidenziare è che nella scelta di un abito forse si è più attenti anche all'indicazioni del tempo e del momento. La scelta del profumo passa per vie più irrazionali, e quindi irrazionalmente finisce per interpretare l'aria del tempo, anche l'aria del luogo. È molto bello, per esempio, passare attraverso il tema della geografia, no? del profumo, perché poi ci sono veramente delle geografie diverse, e ci sono profumi che leghiamo inevitabilmente a dei viaggi, a dei luoghi, e poi ci sono le geografie personali del profumo, che questo è un altro terreno che mi è piaciuto esplorare, perché non tutte mettiamo il profumo nella stessa parte del corpo. Chi lo mette, infatti, dietro l'orecchio, chi sul polso, chi lo mette sugli da tutte abiti, le parti, perché è incerta come me, chi sul cuscino come faceva Marilyn, chi si spruzzava Estée Lauder, spruzzava una nuvola di profumo davanti a sé e poi l'attraversava, in questo modo diciamo si impregnava l'aria davanti a lei e tutto quello che lei aveva addosso. Appena esco da qui lo provo. Gianluca Toniolo, volevo chiederle questo, ma nella visitare il Museo del Profumo a Faubourg Saint-Honoré ho scoperto, c'era tutta una parte molto affascinante di come il nostro cervello reagisce a seconda dei vari profumi. Cioè, noi abbiamo reazioni diverse, un profumo può scatenare una cosa o l'altra. Ecco, fate delle ricerche specifiche, immagino, prima di lanciare un profumo nuovo. Assolutamente, ci sono, come dicevo, delle ricerche molto specifiche, ci sono dei focus sui consumatori di diversi continenti, si vada ad analizzare come il nostro cervello e quindi i nostri consumatori reagiscono ad una nota, diciamo ad una nota olfattiva piuttosto che un'altra. Giustamente mi ricollego a quanto detto prima, il profumo è un qualcosa che deve lasciare una traccia indelebile nella memoria degli altri. E questo ci riporta un po' al tema di quelle che sono le materie prime che vengono utilizzate. Quindi quando noi decidiamo di lanciare un profumo, prima ovviamente nella preparazione, nella creazione, nella costruzione, andiamo a scoprire, dopo aver visto quelle che sono le preferenze dei consumatori attraverso delle apposite indagini marketing, andiamo a scoprire quelle che sono le essenze che meglio rispondono e che meglio fanno passare questi stimoli al consumatore. Tra l'altro, qualche curiosità, utilizziamo degli elementi non solo che sono naturali e specifici, vedi la rosa bulgara, vedi, potrei citare la vaniglia Bourbon piuttosto che quella di Tahiti, perché la vaniglia Bourbon ricorda i liquori, dà uno stimolo al cervello che ricorda il liquore, la vaniglia di Tahiti invece è una nota più femminile che ricorda per esempio l'abbraccio materno e più sensuale, ma all'interno di questo addirittura a volte queste essenze devono essere raccolte ad un momento specifico della giornata, per esempio la rosa bulgara, che è parte di una delle fragranze nostre, deve essere raccolta alle 5:30 del mattino, perché è in quel momento che si cattura e solo in quel momento la vera fragranza che poi quella materia prima sa esprimere e fa ritornare e ricordare alla mente del consumatore, come si diceva prima, quel determinato momento d'esperienza di vita. Sì, perché poi è tutta una questione di emozioni. Ci fermiamo qualche minuto e tra poco torniamo a parlare di emozioni. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Torniamo a parlare di profumo e di quel che ci evoca, delle emozioni che ci suscita. Nicoletta Polla Mattiò, direttrice dell'edizione italiana di How to Spend It, il magazine del Financial Times dedicato al lusso, ed è un magazine del gruppo Sole 24 Ore. Volevo chiederti, si parla molto di marketing olfattivo, no? Nel senso che noi non ce ne accorgiamo, ma entriamo in una boutique, in un ristorante, no? e c'è un profumo che è spruzzato apposta per attrarci e farci rimanere, così? È così, e diciamo si parla anche molto di logo olfattivo, di firma olfattiva, perché proprio perché da un punto di vista neuronale agisce a livello più irrazionale, in qualche modo si salda in maniera associativa, no? Non in maniera razionale, ma si associa istintivamente un determinato profumo, un determinato sentore, mi verrebbe da dire, o con un marchio o con un ambiente o con un ricordo particolare, e questo ovviamente favorisce molto innanzitutto il ricordo di quel luogo o di quel marchio, e nello stesso tempo studiato ad hoc favorisce o un senso appunto di maggiore relax, di piacere in ambienti come potrebbero essere delle spa o degli alberghi, dove magari viene diffusa della lavanda o dell'odore appunto delicato che aiuta a rilassarsi, o invece delle essenze agrumate. Faccio proprio gli esempi più banali, ma per capirci, delle essenze agrumate più toniche, più fresche, in ambienti dove magari si vuole sollecitare un altro tipo di relazione, ed è un messaggio che passa in maniera più diretta e più irrazionale, e soprattutto l'associazione è istantanea. Nel momento in cui appunto si ripercepisce quel logo olfattivo, lo si associa immediatamente a quell'esperienza. Astuti. Senta Toniolo, in conclusione, adesso ci sarà anche la giornata del profumo. È stata istituita il 21 marzo del 2017, ma com'è nata questa cosa? Beh, l'Accademia del Profumo, che è l'associazione che raccoglie e che rappresenta un po' le varie aziende in Italia, ha deciso così di celebrare questo momento, proprio il primo giorno di primavera, proprio per dare un senso ancora più forte a quello che per noi, come dicevo precedentemente, è un mercato che all'interno del mercato cosmetico vale circa il 45% dei nostri consumi. Certo. Quindi è un momento importante, è un momento tra l'altro un momento di celebrazione importante, perché a volte la fragranza è talmente comunque utilizzata che a volte viene quasi dato per scontato, no? Invece a volte anche questi piccoli ricordi, istituire un momento, rappresentano un momento forte per poi ecco, riflettere su, come diceva lei in apertura, quanti ne abbiamo visti passare, no, di fragranze. Certo, e quante se ne possono anche scoprire, perché stanno nascendo anche tanti prodotti artigianali, prodotti di nicchia, ed è anche divertente scoprirli. E poi la cosa che aiuta è che un profumo, per quanto buono possa essere, a costi accessibili, è un'emozione che ci si può regalare. Assolutamente. Grazie a Gianluca Toniolo, Country General Manager di LVMH Parfum & Cosmetics di Italia, e grazie a Nicoletta Polla Mattiò, che è l'autrice di questo libro perfettamente, diciamo, nell'aria del tempo, come si chiamava un famoso profumo di qualche tempo fa, autrice di Essenze di Stile, storia dell'evoluzione femminile attraverso il profumo. Grazie a voi, Maria. Buona domenica.